Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1796. Nasce la Repubblica Cispadana e sceglie la sua bandiera, è verde, bianca e rossa. La Russia è in lutto dopo aver regnato per oltre 30 anni, muore la zarina Caterina la Grande. Il nuovo presidente americano è Adams, il discorso di addio di Washington, neutrali con l'Europa. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Tra poco parleremo delle vicende italiane di questa seconda parte del 1796, ma prima di tutto un doveroso omaggio ad uno tra i regnanti più longevi. È morta la zarina Caterina II, detta la Grande. Il ritratto. Era stata battezzata con il nome di Sofia Augusta Federica, era luterana e di famiglia tedesca. Non bellissima, sembrava destinata al convento, ma nel 1744 fu scelta dalla zarina Elisabetta come consorte del nipote Pietro, erede al trono. E così la sua vita cambiò. Volitiva, intelligente, curiosa, idealista, ma anche crudele, calcolatrice, opportunista e spregiudicata. Sostenitori e detrattori hanno offerto di Caterina II un ritratto a due facce, e a due facce fu tutta la sua vicenda politica. Salita al potere grazie a una congiura e all'uccisione del brutale marito, la zarina si guadagnò fama di sovrana illuminata, istituì scuole, accolse i gesuiti, tentò di riformare il diritto e di limitare l'arbitrarietà del sistema feudale russo. La rivolta contadina di Pugačov, repressa nel sangue, la spinse però su posizioni reazionarie. Una certa stabilità venne grazie al rapporto con Grigori Potemkin, uno dei suoi 21 favoriti, forse sposato in segreto, ma fu soprattutto con le guerre a Polonia e Turchia e con le alleanze con Prussia e Austria che Caterina diede definitivamente alla Russia lo status di primaria potenza imperiale e a se stessa un titolo di grandezza alla fine sostanzialmente meritato. Paolo Piacenza, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Lutto anche per il regno di Sardegna, dove è morto Vittorio Amedeo III. Si devono al suo regno alcune grandi opere come l'espansione del porto di Nizza e l'illuminazione notturna di Torino. Gli succede Carlo Emanuele IV. Di qui torniamo dunque alle cose italiane. L'avanzata francese prosegue, Bonaparte ha costretto lo Stato Pontificio alla firma di un trattato a Tolentino, mentre le città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara hanno fondato la Repubblica Cispadana, che nasce proprio sotto l'egida francese. Nel congresso, che si è svolto subito dopo Natale a Reggio Emilia, la Repubblica ha scelto il suo segno distintivo. Si tratta di un vessillo con tre bande orizzontali, una verde, una bianca, una rossa, e con al centro i simboli della Repubblica. Le indiscrezioni sono state confermate. George Washington non si è ripresentato alle elezioni presidenziali americane. A succedergli, in un voto molto contestato, è il federalista John Adams. Nel discorso di addio, quello che viene considerato il padre della patria si è espresso a favore di una neutralità nei confronti delle vicende europee. Europe has a set of primary interests. L'Europa, ha detto Washington, che sentiamo in sottofondo, ha degli interessi che hanno poco o nulla a che fare con i nostri. Perché rinunciare ai vantaggi di una posizione così privilegiata? Ha aggiunto. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Potete riascoltare il Gazzettino sul nostro sito e ne potete anche scaricare una versione in PDF per chi ama penna, calamaio e ceralacca. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it.